wants a strong sangaree that shakes for 12 hours at least. She's gonna get me fucked up, Belly Bean. She's gonna get me fucked up, Belly Bean. And teach me how to get baby stage whisper and slide. Can everybody turn me on? I saw a girl last night called Charmaine Champagne. She wasn't like so-and-so, not from Times Square. But she went to Johnny Romero's till it was too hot to handle. She's got nothing to show for it, no money, no love. But she'll always tell you the squarest thing there on the jukebox. She'll always sing you the squarest thing on the jukebox, babe. She's gonna get me fucked up, Belly Bean. She likes a strong sangaree that shakes for 12 hours at least. She's gonna get me fucked up, Belly Bean. She's gonna get me fucked up, Belly Bean. And teach me how to baby with stage whispers like, can anybody turn me on? I saw that girl again last night called Charmaine Champagne. I said, show me how to make all those cups and punches. We went to Johnny Romero's till it was too hot to handle. They said we had to get a quarter pound of peach leaves on a dry and sunny day. She showed me the squarest thing on the jukebox. And she sang me the squarest thing on the jukebox, babe. E per questa serata di Sister Ori's Blooming, puntata numero 19, la nuova sigla The Fiery Furnaces, Charmaine Champagne, che erano i miei pezzi preferiti, la tagliamo perché siamo leggermente in ritardo. Buonasera da Sister Ori's Blooming. Stasera con noi non c'è la Musique, che come sapete si è presa un po' di pausa dalla radio, quindi le mandiamo un bacio, un abbraccio e speriamo di ricominciare presto le trasmissioni insieme. Però abbiamo un ospite stasera, che è un'amica che ci ascolta tantissimo, con cui andiamo spessissimo a guardare concerti live, discutiamo di musica, ci passiamo i pezzi, ci scarichiamo l'una con l'altra. Un'amica che viene da Lisbona, dal Portogallo, lei si chiama Luisa. Luisa, saluta. Ciao a tutti, ciao a tutte. Allora, Sister Ori's Blooming, puntata numero 19, abbiamo pensato di, diciamo, di cambiare un po' formato e abbiamo anche fatto un gigantesco invito sul nostro gruppo di Facebook, che è Sister Ori's Blooming. Chiunque di voi voglia venire qui a raccontare la sua playlist della vita, non so se si può dire così, insomma, a raccontare i pezzi e le artiste che in qualche modo sono imprescindibili nella sua storia personale, può contattarci tramite Facebook Sister Ori's Blooming e magari proporsi per venire qui in radio con me nelle prossime puntate fino a giugno. Allora, Luisa, c'ho paura, che vuoi? Allora, intanto racconto che la nostra stanza stasera è buia e, diciamo, è morbida come al solito, anche se di là c'è un sacco di gente, ed è piena di garofani rossi. Mm-hmm. Che tu hai portato. Che io ho portato il Portogallo, perché domani è un giorno speciale. Il 25 aprile per noi è anche un giorno festivo in Italia, beh? Sì. Però in Portogallo simbolizza la rivoluzione contro la dittatura nel 74. È una rivoluzione che è stata vissuta dai miei genitori, dalla generazione dei miei genitori, e quindi mi hanno trasmesso questo idealismo. Non vuoi che io racconti tutta la storia, sicuramente. Magari non tutta la storia, però mi raccontavi una cosa bellissima, cioè che siccome è una festa molto sentita ancora oggi in Portogallo, anche un po' come il nostro 25 aprile qui in Italia, mi raccontavi di questa strada, ma raccontala tu stessa, insomma, di questo viale principale. Sì, quindi per farla molto breve, nel 74 c'era una dittatura fascista e stavamo in mezzo a una guerra coloniale. E quindi dopo decade e decade di sofferenza, i militari, i capitani, hanno deciso di fare una ribellione e sono partiti dalla radio. Quindi io sono molto contenta di essere qua stasera, perché è anche un po' ironico, sono nella radio per la prima volta dopo il 24 aprile, stesso giorno, che sti capitani hanno invaso una radio a Lisbona, hanno passato due pezzi, il primo era una canzoncina pop che andava di moda all'epoca, e il secondo era un pezzo rivoluzionario che era completamente censurato. E quindi l'hanno passato, questo ha dato un segnale a tutti i militari in tutte le città del Portogallo di invadere i posti del governo. E quindi questo, quindi all'occupazione di una radio, di una radio a Lisbona nel 74, esatto. Anche tu stasera hai deciso di occupare la radio. Infatti, in un certo senso. Dicevo prima che io spero bene che stasera compaiano, che ci invadono qualche eroe, qualche rivoluzionario, che ci sia una rivoluzione magari. Allora avete tempo fino alle 11, quindi favore. Non c'è tantissimo tempo per invadere la radio e cominciare una rivoluzione. Magari evitiamo il pezzo pop come avevano fatto i militari in Portogallo e mettiamo direttamente il pezzo rivoluzionario. Ah no. Però insomma direi che diciamo possiamo partire dal tuo primo pezzo. Allora, la tua playlist, raccontami un po' il primo pezzo. Il primo pezzo è un pezzo brasiliano di Elis Regina, che è una delle più famose cantore brasiliane. E per me è importante nella mia infanzia perché mia madre cucinava mentre cantava questa Elis Regina e altre. E quindi mi ricorda mia madre, questa canzone la volevo dedicare a lei. Perfetto. Allora. Tra l'altro, scusa, ma ti volevo dire che questa canzone si chiama Maria Maria, e sulle donne, quindi e anche su la guerra, cioè su non la guerra, mo sto inventando un po', ma sulla sofferenza e sulla lotta delle donne. È una canzone molto bella. E quale posto più appropriato che la chiusura del martedì femminista e lesbico autogestito qui a Radio Onda Rossa? Elis Regina, il pezzo si intitola Maria Maria. Andiamo. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. E dopo tutto questo romanticismo legato al tuo inizio, io insomma ritorno un po' alle cose più terra-terra, più attuali. Molti dischi in uscita nei prossimi giorni, in particolare questo disco di cui un po' vi avevamo già parlato insieme alla Music, che è Master of My Make Believe di Santi Gold, che è una che ci piace tantissimo. È uscito in Europa il 24 aprile, uscirà, dicevi, a maggio negli Stati Uniti. Inizio maggio. Ok, per una volta ritardato negli Stati Uniti anziché il contrario, quindi ci fa piacere. Santi Gold ci piace, è molto interessante insomma la musica che propone, abbiamo, io e te abbiamo pareri discordanti su questo album. A me sta piacendo molto, anche se sono ai primi ascolti. Comunque mi piace moltissimo questo album. Anche se tu ancora preferisci. Preferisco l'altro. Ancora l'altro. Io ancora non mi pronuncio su come giudizio definitivo. Anche se insomma oggi l'ho ascoltato tutto per intero, tutto d'un fiato, e secondo me è molto interessante. Quindi un pezzo tratto da questo album, in realtà è il pezzo che apre l'album. Lei è Santi Gold, il pezzo si intitola Go. Sarà Santi Gold con il pezzo d'apertura del nuovo album Go. E allora Luisa, noi spesso ci confrontiamo sulla musica, noi abbiamo 10 anni circa di differenza, quindi era divertente che molta della musica che ascoltavo io negli anni 90, quando insomma ero un adolescente, tu eri una piccerella, come si dice alla mia parte. Io sono nata nel 93, tu del 73 sei. E quindi insomma, e tu cominciavi ad ascoltare quella musica, quindi sì, è stata la tua prima formazione. Sì. Il prossimo gruppo in effetti ha scelto un album un po' passatello. Sì. Raccontami un po'. Per me questa la canzone ha marcato gli anni 90. Quando mi ricordo gli anni 90 è Massive Attack con Unfinished Sympathy, cantato da Shara Nelson, che ha collaborato molto con Massive Attack in questo periodo. Non so se vi ricordate il video di questa signora nera che cammina per le strade. Poi è stato rifatto da The Verve in Bittersweet Symphony. E c'ha un senso di malinconia, di viaggio. È un po' strano questo pezzo, ma è molto bello. È stato votato uno dei migliori pezzi di sempre, uno dei 10 migliori. dai lettori del The Guardian. Wow. E quindi un tuffo negli anni 90 con questo pezzo. Presentalo tu, dai. Quindi adesso ascoltiamo Massive Attack con Unfinished Sympathy. We'll be right back. tuffo nel passato che ci voleva. E quanto è bella, va? Con Massive Attack. E io vi ricordo www.twomenshow.wordpress.com, che è il nostro blog, 0649 0750 per farci gli squillini, su Facebook Sisterhood is Blooming. E se volete twittare al momento con me, perché è il mio account che è attivo, io sono Donna Sonica. Allora, il 21 aprile, non so se ve lo ricordate, se ve lo siete ricordate, quindi avete partecipato a questa giornata, ve l'abbiamo ricordato anche l'anno scorso, era il Record Day Store, scusate, il Record Store Day in realtà, ed è il giorno in cui i negozi di dischi, insomma, restano aperti tutto il giorno, organizzano magari delle cose, offerte speciali, concerti, eventi, e anche alcuni dischi vengono fatti uscire, soprattutto dischi in vinile, ovviamente, visto che è il Record Day Store Day, in particolare per quella giornata. Uno di questi, l'idea che sta sotto il Record Day, Store Day, ve l'avevo raccontata, ve la riracconto perché è molto bella, è l'idea di promuovere dei piccoli negozi, dei negozietti, le botteghe, insomma, dove il proprietario o la proprietaria in realtà sono gli appassionati di musica principali di quelli che sono dentro il negozio, e quindi sostanzialmente danno un'impronta anche alle persone che arrivano, nel senso che ti dicono: ma ascoltati questo, no, ma secondo me devi sentire quest'altro, no, ma secondo me questo fa cagare, diciamo che no. È un giorno per le record label, non per le persone, per promuovere le record label. E in qualche modo, diciamo, il negozietto è così. Io mi ricordo quando ero piccola, c'era il negozietto dove il proprietario era un ragazzo, fondamentalmente mi passava le cose che gli piacevano di più in quel momento, e poi io da lì tiravo fuori quello che poi piaceva pure a me. Quindi il Record Store Day è una cosa fichissima, quindi dovete partecipare assolutamente. È una cosa fichissima. Tra l'altro, noi siamo andati a un, scusami, no, ma siamo andati a un negozietto, era sì. Pieno, io non aspettavo, era pieno di gente, era stracolmo di gente. Insomma, l'anno scorso avevo organizzato anche un concerto, penso che poi dopo, quando abbiamo lasciato il negozio, probabilmente ci sarebbe stato un piccolo concerto rock and roll, perché lui è molto appassionato di rock and roll e quindi chiaramente cerca di proporre, no? Io mi sentivo in un negozietto per bambini, un sacco di cioccolata, lo sai, no? Sì, di te è quella, sì. E una cosa carina che è successa quest'anno è che una delle nostre artiste preferite, cioè Saint Vincent, di cui vi abbiamo già parlato e che è anche una delle tue artiste preferite, ha fatto uscire un 7 inch, un 7 pollici, con appunto due pezzi, lato A e lato B, una cosa bellissima a cui non siamo più abituati. E che tra l'altro, scusami se ti interrompo, no, ma vai. Penso che Saint Vincent abbia fatto l'unico CD apposta per questo giorno, di quelle cose che ho visto. L'unico disco, perché è uscito su vinile. Scusami. No, ma penso che sia l'unica che ha fatto qualcosa di originale proprio per questo giorno, no? Questo non lo so. Che ho cercato su internet, un sacco di artisti hanno rilanciato dei pezzi. Beh, in effetti quest'anno c'era poca roba nuova pensata per questo giorno. Sicuramente questo pezzo, che è anche un po', si chiama Crocodile, è anche un po' è stato un modo per lei per tirare fuori quella sua vena punk di cui aveva raccontato anche durante il concerto, sì, live che abbiamo visto, insomma, che è qualcosa che sta lì e chissà se troverà il modo di uscire fuori nei suoi prossimi Saint album. Vincent, se legge delle interviste, tutti i gruppi che ama sono tutti di prog rock, di progressive rock, tutti gli anni 70, 80, tutti dei matti, quindi si sapeva che prima o poi doveva tirare fuori qualcosa, sì, del infatti. Genere. E quindi ve lo facciamo ascoltare. Questo appunto tratto dal 7 pollici, che è uscito appositamente per il Record Store Day. Il pezzo si intitola Crocodile. hai visto che cosa ti combina la Saint Vincent? Yes. Così, lasciala un po' libera e lei ti spara un pezzone così. E allora, il tuo prossimo pezzo, Luisa, della tua playlist personale? Sì, era il 97-98, una signorina di colore ha fatto "Yeah, sono arrivata!" Lauryn Hill, Miss Education of Lauryn Hill, un album spettacolare secondo me. Assolutamente. Questa canzone per me comunque ha un significato emotivo, mi ricorda un periodo non tanto nuovo della mia vita, quando mi sono lasciata, il pezzo è X Factor. Wow. Yes. Ah, tra l'altro sto pezzo apprende un po' di un altro pezzo che Can't Be So Simple di Wu-Tang Clan, dell'album 36 Chambers. Lei fa un piccolo sample di questa cosa e l'aggiunge al pezzo suo e la butta dentro. Yes. Beh, io penso che questo pezzo, diciamo, è stato un po' la colonna sonora di piccole delusioni un po' di tutte quante, devo dire la verità. Quindi, insomma, senza andare troppo nei ricordi, ci sentiamo Lauryn Hill, X Factor. Yo, yo. Qui in studio tutte cantavamo questo pezzo fantastico. L'unica cosa che non mi è piaciuta è questo assoletto alla Santana, guarda sul finale. Ah, lo so, è veramente orribile, odio, vero? Santana. Vorrei uccidere il produttore che ha pensato di infilarcelo dentro. O il Cliff John forse. Sì, direi di sì. Una scelta pessima. Un pezzo bellissimo. Come al solito la nostra scaletta è schizofrenica e sempre sarà schizofrenica. Sono 19 puntate che è schizofrenica, quindi ormai chi ci segue è abituato. Io metterò un pezzo di Sharon Van Etten. Era un po' di tempo che me la portavo nelle scalette, non c'è mai tempo perché alla fine dobbiamo sempre correre contro i minuti che scorrono davanti a noi, questo orologio rosso che abbiamo con secondi, minuti e ore, e quindi insomma ogni volta la saltavo. Il suo album è uscito a febbraio. Lei è una tipo molto interessante, la classica storia della brava ragazza che va, insomma, si trasferisce nella grande città a studiare all'università, che suonava il clarino da piccola, poi passa al piano e finalmente approda alla chitarra e poi torna nel New Jersey, da dove viene, da dove insomma è nata, da dove è cresciuta, e incontra il chitarrista e bassista di TV on the Radio che le dice: ma secondo me te dovresti cominciare a suonare, perché secondo me sei brava. È una timidona incredibile, guardarla suonare dal vivo è molto, molto carino, molto tenero, perché è veramente super timida, non ha quasi il coraggio di guardare il pubblico negli occhi, quindi è molto dolce nel suo modo anche di porsi davanti al pubblico. Quest'album è molto carino, mi piace molto, le atmosfere molto, molto tranquille, molto intime, molto personali. Il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Serpents, lei è Sharon Van Etten. Allora Luisa, che ne dici di Sharon Van Etten? Mi piace molto. Stuzzicata un pochino? Molto. E allora la tua prossima artista, insomma, è un'artista di tutto rispetto. La mia prossima artista è quasi mia madre, cioè, ma veramente cresciuto, cioè per me significa tantissimo. Ani Di Franco, l'ho iniziato a sentire. Io comunque vi sto passando dei pezzi in ordine cronologico per me, di quando li ho scoperti. Quindi questo stavo all'università e quando ho sentito Ani Di Franco per la prima volta, non lo so, mi dà molta forza e molta fiducia in me stessa. Io dico sempre che una delle cose più belle della musica, ne parlavo anche qualche giorno fa con Loredana Conte, che sta facendo un documentario sulla musica, il nostro e i pezzi che hanno significato qualcosa da un punto di vista emotivo nella nostra vita, molto interessante, di cui magari parleremo con lei quando verrà a trovarci qui in radio. E io dicevo che una delle cose che mi emoziona di più quando scopro un artista è scoprire che c'è qualcuno da un'altra parte del mondo, che parla un'altra lingua, che ha tutta un'altra vita e che racconta un'emozione, una storia come la vorrei raccontare io, quindi con le mie stesse parole, con la mia stessa voce, con i miei stessi suoni. E penso che, insomma, in qualche modo è come trovare una sorella da un'altra parte della terra senza sapere nulla di lei. Ani Di Franco per me c'ha la chitarra, che è una matta. È un po' tipo Joni Mitchell, fa un sacco di affinazioni diverse e la tocca di una forma incredibile, perché fa basso, chitarra e batteria allo stesso momento. Questa canzone non è così, ho scelto una canzone un po' diversa. E anche le parole, è una bravissima poetisa, non mi ricordo adesso il nome, ma comunque è stata, i suoi maestri sono del slam, del poetry jam. Esatto, sì. E per terzo è anche molto politica. Quindi abbiamo tre cose che a me piacciono molto. Fantastico, ce la dobbiamo solo ascoltare. Andiamo. E il pezzo che hai scelto? So What, dell'album Reveling Reckoning del 2001. Who's gonna give a shit? Who's gonna take the call? When you find out that the road ahead is painted on the wall, and you're turned up to top volume, and you're just sitting there in pause, with your fear a little secret scratching at you with its claws, and you're trying hard to figure out just exactly how you feel before you end up parked and sobbing, forehead on the steering wheel. And who are you now? You thought somehow you could just pretend. one person be? As they're careening through the facade of their favorite fantasy, you just close your eyes slowly, like you're waiting for a kiss, and hope some lowly little power will pull you out. Wow, ti piace? Molto. E, abbiamo appena saputo che c'è un po' di gente che ci ascolta dal Portogallo, yes. Quindi insomma, dai, saluta un po' in portoghese. Olá, mãe. Che cosa tipica? Vai. No, olá, mãe. Tudo bem? Okay. È andata. No, io pensavo, siccome siamo alle 11.04, ancora nessuno ci reclama il microfono, quindi qualche minuto ce lo possiamo concedere. Vai con l'altro tuo pezzo, scegli uno dei due che avevi preparato, insomma, come tuo ultimo pezzo della tua playlist. Sì, vado con Johnny Mitchell, che l'ho iniziato a sentire un po' tardi, quando sono andata via dal Portogallo, avevo 21 anni, e questo pezzo è un po' sulla strada, su viaggiare, anche su i rapporti personali, quindi io penso quasi che questo pezzo è stato scritto per me, lo sento un po' così. Sì, eh? Sì. Lo chiederemo a Johnny Mitchell appena passa in Italia. Johnny Mitchell è nato lo stesso giorno mio, forse c'entra qualcosa? Forse qualche segno astrale. Yes. No, tu mi dicevi prima questa cosa che molte delle canzoni che ti piacciono, intanto mi dicevi giustamente, perché noi ascoltiamo tantissimo rock, sì, sia te che io, e siccome ti avevo chiesto una playlist un po' intanto fatta da donne. Tu mi hai detto fai una playlist di donne. Ed è stata dura. Non è stata. Perché in Portogallo non arrivavano le donne negli anni 90. Dai, tu lo sai, prima di internet, io comunque nei inizi degli anni 90 tu già ti ascoltavi tutto il grunge, eccetera. Io avevo 10 anni. Mi sentivo Nirvana, mi sentivo tutti gli uomini. Nirvana mi piaceva tanto, Smashing Pumpkins, Green Day, Bush, eccetera. Però non c'erano donne, io pensavo che le donne non facevano niente, erano delle pezzi di merda, cioè erano noiose, le donne non fanno musica, che palle. E invece beh, ho scoperto che non era così. Più tardi ho scoperto, infatti che ce n'erano per un me sacco. È divertente che sto passando un sacco di pezzi, nessuno di questi è rock, perché per me rock non era fatto da donne, adesso lo sto scoprendo. Fantastica questa cosa. È triste questa cosa. Presenta, no, ma è anche fantastica, nel senso che in qualche modo racconta la verità di quello che facciamo, nel senso che dedicare uno spazio e dedicare anche un programma, e poi consiste con Iris Blooming, mettiamo anche in giro quando facciamo le serate solo selezioni di donne, qualsiasi genere scegliamo, e in qualche modo è proprio questo insomma, in qualche modo avvalora quello che cerchiamo di fare, cioè l'idea di promuovere la musica fatta da donne di tutti i generi, che in qualche modo è sempre stata un po' soprattutto in particolari generi considerati da maschi come il rock, anche il metal o anche altre cose così, anche il jazz per esempio, no? Infatti. Soltanto insomma le donne hanno soltanto le voci, ma insomma musiciste ce n'erano poche, in qualche modo insomma invece ci fa ricordare la nostra storia e ce la fa anche scoprire, quindi la nostra idea è questa, quindi figurati è una cosa bellissima il fatto che in qualche modo la stai scoprendo col tempo e ci stai tornando sopra. Presenta il tuo pezzo. Ne ho già parlato, no? Mi sono un po' rincoglionita. Ne ho già parlato di questo pezzo, no? Ok. All I Want di Joni Mitchell, del primo album, Blue. Penso sia anche la prima canzone. Mi piace tantissimo. Andiamo. Era Joni Mitchell, dannata, no? Che è come un buon vino, invecchia bene lei. Allora, io stasera chiudo con questa, diciamo, atmosfera un po' che ha ripercorso un pezzo della tua vita, insomma una parte della tua vita e della tua crescita musicale, con un artista che non fa parte in realtà del mio passato, anche se sono tantissime le persone che sono affezionate alla sua musica, che è Fiona Apple. E parlavamo qualche settimana fa del fatto che sta per uscire insomma un nuovo album molto atteso, l'ultimo album che era ufficiale del 2005, insomma, quindi sono passati 7 anni, tantissimi fan chiedevano di lei. Mi ricordo, cercando un po' di cose cose su di lei. Mi sono ricordata di questa storia dell'ultimo album che era uscito, che era successo un casino perché la Epic Records, che poi in realtà appunto è una etichetta assorbita dalla Sony, quindi insomma una sorta di piccola etichetta in realtà di una major, all'epoca l'aveva bloccato l'uscita dell'album, che doveva uscire in realtà nel 2004, un anno prima che era stato finito di registrare, e i fan si erano incazzati tantissimo con la Sony e con la Epic, hanno fatto delle petizioni, raccolta di firme, proteste davanti a insomma gli uffici della Sony per spingere invece a far uscire quest'album, di cui poi sono usciti sulla rete in quegli anni, insomma in quei mesi, diversi pezzi insomma pirata che anticipavano l'album. E la Sony poi, quando la Fiona Apple è ritornata in studio per riregistrare l'intero album l'anno dopo, ha detto: in realtà non eravamo noi a farle problemi, era Fiona che non era contenta del suo album. E considerato che dal 2005 al 2012 sono passati 7 anni, forse la verità sta nel mezzo. Ma anche Santi Gold è sparita per un paio d'anni anche perché non era contenta con la label sua. E adesso anche, tra l'altro, lei è andata a registrare in Jamaica, Santi Gold sempre, perché era scontentissima con la record sua, che voleva farla molto più commerciale, anche con Deep, tutte le persone che avevano prodotto il primo album. Qui non sappiamo dove sta la verità, se era la Sony a non voler far uscire quell'album perché è troppo poco commerciale, o se invece era Fiona che insomma non era contenta di quello che era uscito e voluta rientrare in studio. Il nuovo album, che uscirà fra un mese e mezzo circa, si chiamerà, udite udite, The Idle Wheel is Wiser than the Driver of the Screw, and Whipped Cord will Serve You More than Ropes Will Ever Do. Oh, ma è un titolo molto piccolo. Non è uno scherzo. Molto ma almeno per ora è il titolo del suo prossimo album. Probabilmente vincerà il premio come l'album più impronunciabile della storia della musica in generale. Il pezzo che è uscito qualche giorno fa e che si trova in giro, potete trovare anche insomma dei video in realtà Fiona Apple l'ha postato sul suo SoundCloud, quindi insomma potrete guardarlo direttamente dal suo spazio. Si chiama Every Single Night. Sister Uris Blooming vi saluta e vi dà appuntamento al 15 maggio, perché tra 1 maggio e Le Pelose, che ritornano l'8, passerà un po' di tempo fino alla prossima trasmissione. Luisa, grazie di essere stata con noi. Grazie mille, mi è piaciuto troppo. Grazie. Quindi, a tutti. Spero che tornerai presto. Anche a voi rinnovo l'invito. Venite sul nostro gruppo di Facebook, Sister Uris Blooming, e prenotatevi, raccontateci la vostra playlist e magari ci convincete ad ospitarvi qui. Intanto, buonanotte a tutti. Ciao a tutti. Fiona Apple, Every Single Night. Every single night, I endure the flight of little wings of white flame, butterflies in my brain. These ideas of mine percolate the mind, trickle down the spine, swarm the belly, swelling to a blaze. That's where the pain comes in, like a second skeleton, trying to fit beneath the skin. I can't fit the feelings in, no. Single nights alight with my breath. What I say to her, what I say to her, what does she think of me? That I'm not what I ought to be, that I'm what I turn out to be. It's got to be somebody else's fault. I can't get caught if what I am is what I am, cause I does what I does. Then brother, get back, cause my breath's gonna bust open. The rib is the shell and the heart is a yolk, and I just made a meal for us both to choke on. Every single night's a fight with my breath. I just wanna be double king size bed. open. My heart's made of parts of all that's around me, and that's why the devil just can't get around me. Every single night's alright. Every single night's a fight, and every single fight's alright.